Europa 24. Un saluto da Gigi Donelli. Dunque, parlavamo dell'allarme lanciato dal presidente di Confindustria per la crescita questa mattina. Giorgio Squinzi si è rivolto anche ai partiti europei, ha detto: se i partiti europeisti saranno capaci di interpretare il cambiamento, anche il voto degli scettici sarà stato un voto utile. In caso contrario, chi vuole demolire l'edificio comunitario rischia di prevalere. Gli italiani sembrano avere respinto queste pericolose e pulsioni, ma ha aggiunto: in Europa resta forte la rabbia dell'euroscetticismo. E a proposito di scetticismo o eurocritici, adesso si comincia naturalmente e giustamente a fare le differenze intorno a quella che fino a qualche giorno fa era semplicemente l'area cosiddetta degli anti-euro. Ieri è stata una giornata importante. Allora, con Vincenzo Miglietta facciamo il punto su quella che è già stata titolata la giornata degli euroscettici a Bruxelles. Grandi manovre tra gli euroscettici in vista della composizione del nuovo Parlamento. Le regole di Strasburgo prevedono gruppi di almeno 25 europarlamentari provenienti minimo da 7 paesi diversi. E allora le alleanze sono d'obbligo anche per chi, caso 5 Stelle in Italia, corre da solo. Da qui la presenza ieri a Bruxelles di Beppe Grillo, che ha incontrato Nigel Farage, leader del britannico UKIP. Siamo ribelli con una causa e combatteremo con il sorriso, le parole di Grillo, che è tornato quindi sulle europee. Ma quali dimissioni, è stata un'affermazione altro che capo. Faccia a faccia poi tra Salvini e Marine Le Pen, quindi conferenza stampa a 5 con gli olandesi del Partito delle Libertà di Bilders, gli austriaci dell'FPO e i belgi del Vlaams Belang. Gli obiettivi del gruppo, nelle parole del segretario della Lega Nord Salvini: orgoglioso di sedere a questo tavolo in questa alleanza per la speranza contro tutto quello che è unico, la moneta unica, il pensiero unico. Finalmente ci sarà un'opposizione a quei trattati internazionali che svendono il nostro futuro. Bloccheremo ogni tentativo di maggiore integrazione europea voluto dai nostri avversari, aggiunge Marine Le Pen. Stiamo scrivendo la storia, così il leader olandese Wilders. Vincenzo Miglietta, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E sembra chiaramente destinato a muoversi tra cooperazione e competizione anche la riunione di stati, l'Unione Eurasiatica, di cui oggi si è firmato ad Astana, dunque il Kazakistan, il trattato tra Russia, Bielorussia e naturalmente il Kazakistan. Una firma storica, epocale, così Vladimir Putin ha definito la firma ad Astana del trattato che segna la nascita dell'Unione Euroasiatica, sottoscritto con i presidenti del Kazakistan e della Bielorussia Nazarbayev e Lukashenko. Dal 1 gennaio 2015 creerà uno spazio economico unico tra le tre ex repubbliche sorelle, il mercato regionale più grande al mondo, con una popolazione di 170 milioni di persone e un PIL totale che sfiora i 2.700 miliardi di dollari. La nostra Unione, ha sottolineato il leader del Cremlino, ha enormi riserve di risorse naturali, inclusa l'energia, che rappresenta un quinto delle riserve di gas mondiale e il 15% di quelle petrolifere. La comunità economica euroasiatica, infatti, apre scenari enormi non solo per gas e petrolio, ma anche per le infrastrutture. Sullo sfondo di quella che è stata definita l'anti-Unione Europea c'è, appunto, un'Unione Europea in crisi alla ricerca di un cambio di marcia e l'Ucraina nel bel mezzo di una guerra civile. Per qualcuno è come rimettere in piedi l'Unione Sovietica. Certo è che i confini sembrano già destinati ad allargarsi e in prima fila ci sono Kirghizistan e Armenia. Maria Luisa Pezzali, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Staremo dunque a vedere. Per ora è tutto per Europa 24. La linea va subito a Carlo Genta. Europa 24, in collaborazione con Euronet Plus.